denti senza bocca, erano un fuoco che scotta, erano la vita che rintocca. Erano tre, erano quattro, avevano sassi, avevano cuori. Avevano parrucche, occhiali, pistole, tamburi e silenziatori. Avevano linguaggio e chitarre da dietro le sbarre, ridevano eppure parlavano. Avevano alcuni mogli e figli che dietro un vetro adesso li salutavano. Avevano certo dei mandanti ed erano tanti, senza né viso né storia e senza prove. Alcuni sapevano tutto, tutto ricordavano e andavano, ma non dicevano dove. Altri giuravano, spergiuravano e tutto confessavano, nome e cognome. Tutti sapevano tutto di tutti, perfino il numero, ma non dicevano come. Venivano da lontano, avevano occhi e cani, avevano stellette e guanti e paura. Erano tre, erano quattro, erano più di 24, erano 10 e 10.000. Erano bocca e occhi, scacchi e tarocchi. Erano occhi e brace. Erano giovani e forti, erano giovani vite dentro una fornace. Paesaggi spaventosi. Io sono in quel d'Abruzzo a prendere un po' di freddo e sole pungente. E nel sottofondo abbiamo il fantastico Mario Mariani, che era stato ospite qua da noi a Coxo Spaziale con le sue Rossini Variations. Questa è la overture della Gazzaladra, che sentite vagamente perché poi in maniera un po' noisy, come si dice, un po' rumorosa, perché io nel frattempo sto guidando sull'asse attrezzato registrando questa puntata, e che è una puntata appunto non tanto più natalizia, visto che non il Natale è passato finalmente, ma comunque abbastanza festiva, nel senso che in questo periodo non ci sono tantissime cose da raccontare nel mondo dell'arte contemporanea e in quella del teatro, e dunque possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo per ascoltare un po' di musica coxica, tipo, che ne so, Jörg Dreusner, che era un caro amico artista che faceva anche musica e faceva anche delle cose un po' strane, e che poi purtroppo nel 2015, se non sbaglio, forse anche prima, nel 2013, è passato a miglior vita. Perché poi si dice passato a miglior vita, non si sa, visto che diventi una roba che non funziona più. Comunque, detto questo, lo salutiamo lo stesso, il nostro caro Jorg, ed ecco vi faccio sentire un pezzo che non ha un titolo, perché nel CD che lui ha pubblicato non ha messo i titoli dei pezzi, per cui sono tutti così. Ed è tempo di saldi da Aldi. No, mi è venuta così questa fantastica rima, perché mi è venuto in mente che effettivamente non sentiamo mai abbastanza di 2 minuti di lolli, per cui in questa occasione possiamo addirittura permetterci di ascoltarne 4. Per cui ecco a voi, Riccardo Lolli è il fantastico DJ che alle 23 di ogni giovedì sera presenta un programma di musica abbastanza coccica, diciamo, chiamato Uova, Soda e Noci, qui su Radio Città Fujiko 103 a momenti. Tampono quello davanti perché ha inchiodato senza nessuna motivazione. Dicevo, Uova, Soda e Noci su Radio Città Fujiko 103.1 FM ogni giovedì alle ore 23. E lui è Riccardo Lolli e costruisce anche, almeno costruiva, perché poi è un po' che non ha tempo di farli, costruiva anche dei fantastici file da 2 minuti, appunto chiamati i 2 minuti di Lolli. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Le piazze, le strade, ovunque casa tua. Strani baldacchini magnetici sulle case, sulle chiese. Ti cercano, ti chiamano, ti costano l'ira di Dio.

più o meno 20 anni fa a Londra ho comprato un disco che era della Kunlun Records, stampato a Kuala Lumpur in Malesia, e finalmente grazie a Google Translate, che traduce anche i testi in fotografia, posso scoprire chi è l'autore di questo disco, ed è così. 青山主唱银石乐队轮大乐队, ovvero King Shang, il cantante, Silverstone, non so che dice King Shang, cantante Silverstone, della Kunlun Big Band. E adesso vi faccio sentire la prima canzone e poi però come si intitola ve lo dico fra un po'. 相思为了情，不信人，不信别人，我恨你又想你。 把一切献给了你，你没良心，任性把我遗弃，寸寸断肠，相思未了情，不信人不信别人，我恨你又爱你。 Questa canzone si intitolava che significa più o meno a caccia è innamorato o qualcosa del genere. Semplice, no? E in questa notte di luna piena, Coxo Spaziale vi saluta e vi dà l'appuntamento per il 2019. Un sacco di buoni propositi per l'anno nuovo e non mi ricordo, forse deve essere venerdì 4 gennaio che ci risentiamo sempre su Radio Città Fujiko 103.1, oppure forse anche venerdì 3, venerdì 2, venerdì 5, non saprei, non ho davanti un calendario, presumo che sia il 4 gennaio. In ogni caso, mi raccomando, non scappate, rimanete sempre sulle nostre frequenze e vi lascio con Mighty FM, la fantastica trasmissione di Claudia Mauti, e come al solito vi lascio con le parole del nostro esimio direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Valfilzetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo i soliti furbini che niente messa, niente castagnata. E vorrei essere stato chiaro. Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio. Sera. Elio, resta con me e avremo la pace. Elio, fammi impazzire, fammi penare, la notte mai più scenderà. Ri, ti porteremo i nostri fratelli. Passata non mi importa chi t'ha avuto per le vie del mondo, Signore. Non mi importa tu passata, non mi importa chi t'ha avuto, resta con me. Parola di avere. Grazie. E anche un'ultima cosa, le signorine che si presentano in oratorio a 13-14 anni pittate come delle sciantose, sappiano che questo non è né il luogo né l'occasione per dedicarsi a certe attività, perché siamo qui per crescere e diventare persone adulte, per fare comunità e per farci l'uno prossimo dell'altro. Noi sappiamo tutti che i giovani sono vulnerabili.